registrando a sesto. E non ho mai spaccato, se non svolterò con il sesto disco. Sono spacciato, ho un sesto senso, a quando ho spiccato. Ma se sto a quello che sento, mi sarei già impiccato. Voglio il blocco dello scrittore. Sì, il blocco dello scrittore. Perché non c'è il blocco dello scrittore, cazzo? E se pensate che m'abbia preso per il culo, mi sa che passerà su sto microfono parte del mio futuro. Se blocco le parole, mi esplode il cane e muoio, lasciandoci le penne, ma senza inchiostro ovvio. Conservo l'entusiasmo, rimango distaccato, per carattere l'indifferenza non m'ha mai intaccato. Regalo ancora rime, fotte un cazzo d'essere pagato. Continuo a scrivere, non sono mai appagato. In un'altra vita ero un emanuense, mentre in questa la N e la doppia S. In entrambi i casi scrivo davvero tanto. 11 blocchi forse, ce l'ho solo quando canto. Sì, perché questa voce stupra anche le mie orecchie. Ma lo faccio con amore, rivedrò tutte le scelte. Vada come vada, la mia penna rimane la spada. Strofa dopo strofa, lungo la mia strada. Ma quale blocco? Sono bravo, bla bla bla con le parole, bla, bla. È chiaro il concetto, adoro scrivere, perché odio parlare, sì. Quindi ritorno a vivere, anche quest'anno mi rivesto da rapper. Accantono un altro po' il nome di Beppe. Sfogarmi con Ness è un bisogno fisiologico, faccio audi con me stesso e te lo giuro è patologico. Certo del fatto che vivrò ancora con quel dolore, quindi col cazzo c'avrò il blocco dello scrittore. Ritrovo le mie rime con i diritti d'autore, per le emozioni no, i diritti d'amore. Ho parole che assaporano il gusto inferno, sono i peccati che giorno dopo giorno metto su di un quaderno. Dove trovi ciò che penso, penso ciò che scrivo. Io scrivo ciò che canto, canto ciò che vivo. Ma quale blocco dello scrittore? L'unico blocco è quello di cemento che ho nel cuore. Vorrei fermarmi, ma provoco dolore. Davvero credete che ci sia l'interruttore? E quando dico basta accendo quell'interruttore, vengo sui fogli come Rocco, mi sento un buon attore. Studio un blocco di granito come uno scultore, o studio un blocco di macere, ricostruisco come un muratore. Cristo santo, t'ho chiesto solo un favore, stacca la corrente, nel buio il giorno muore. Invece un riflettore, puntato dritto in faccia, che mi tiene sveglio, pistola alla tempia, sotto minaccia. Se mi blocco, è perché non c'ho più l'età, mi sbocca addosso se mi bevo la tua sacrosanta verità. E vado avanti a testa alta, so del mio valore, nasce dal passato, da chi mi ha dato amore. Coloro che ringrazio, senza giri di parole, se ne incontra ancora altro che blocco dello scrittore. Quindi grazie, boh, m'avete fatto ingazzare. Vi amerò per sempre, ma prima vi voglio ammazzare. Ma quale blocco dello scrittore? L'unico blocco è quello di cemento che ho nel cuore. Vorrei fermarmi, ma provoco dolore. Davvero credete che ci sia un interruttore? Credete che ci sia un interruttore? Bitch! Allora trovatemelo.